guarda mi confondono, entrano nelle orecchie, poi si espandono, lasciano vibrare le mie sensazioni. C'è una gatta distratta che mi agola, come fosse rapita da un canto, e hai ragione, se credi che ho pianto. E piove, tu non sarai più la stessa. E piove, tu non sarai più la stessa. E piove, e tu non sarai più la stessa. E piove, e tu non sarai più la stessa. Ed è ridicolo, e veloce si siede sull'abitacolo, accende il motore girando le chiavi. Ed un'anziana mi guarda mentre mendica, mi chiede i soldi e balbetta, e hai ragione, è successo troppo in fretta. E piove, tu non sarai più la stessa. E piove, tu sarai più la stessa. Piove, tu non sarai più la stessa. Piove, tu non sarai più la stessa. E cammino, cammino disorientato, batto la testa contro un palo, una ragazza al mio fianco accenna un sorriso. Mi cammino verso casa per cena, sento un inutile senso di colpa, hai ragione, non è più come una volta. E piove, tu non sarai più la stessa. E piove, tu non sarai più la stessa. E piove, e tu non sarai.